Ciu, canta Napoli, Marco, Claudio, Marino. La capacità di importante del giocatore Sarri, che vorrei di dare a talmente carisma come Branchi, che i giocatori anche come le pubblici seguivano e hanno seguito qualunque direttiva che il finale ha in particolare. Questo soprattutto purtroppo ai noi ne siamo anche verificato. Canale 10.